realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Poche risorse per i disabili, poca attenzione per le loro necessità, pochi investimenti per proteggere il loro presente e il loro futuro. Lo rivela un rapporto del Censis sull'offerta da parte della sanità italiana di servizi a malati cronici e disabili confrontata con gli altri paesi europei. Una malattia che nel giro di qualche anno ha stravolto la vita di Luca e delle persone che gli sono accanto. Poi le difficoltà quotidiane sono che siamo qui a casa, dobbiamo prendersi cura di lui, 24 ore su 24, sempre. Giorno e notte. Il nostro paese destina 438 euro pro capite all'anno contro una media dei paesi europei che si attesta a 531 euro a disabile. Il grosso delle spese finisce per pesare quasi interamente sulle spalle delle famiglie. Il Lazio, la regione dei Fiorito e dello scandalo per i fondi al PDL, non assegna loro un solo centesimo. La regione Lazio a noi non ci aiuta, non ci dà nulla. Mentre nelle Mi altre rendo regioni, perfettamente conto che con questo inizio io stesso una ventina d'anni fa avrei detto, beh sentite, già una mattinata complicata, è lunedì, è un periodo brutto, oggi non ho voglia di affievolire il mio barlume di gioia sentendo storie di persone con disabilità, di miseria e di tristezza. Me ne rendo conto, infatti, chi si sente appesantito da quello che stiamo per raccontare questa mattina e che Radio 24 racconterà puntualmente per tutta la settimana, occupandosi di sociale e di persone che soffrono maggiormente, più degli altri, il disagio della crisi, il disagio della congiuntura economica. Ma chi da questo sentisse appesantito non ascolti pure la radio, ma so che invece sono molte le persone che sono direttamente interessate a questo problema. Sono quelli che, per cui la crisi non è semplicemente non poter acquistare un vestito nuovo, non poter usufruire dei saldi come vorrebbero, non poter passare un Natale sulla neve come sempre è stato fatto nella tradizione familiare da generazioni, ma significa semplicemente non avere più possibilità di vivere, non avere più vita, mentre voi tranquillamente ogni mattina uscite nel bene o nel male con i vostri problemi, con i vostri acciacchi, con le vostre angustie e tornate ogni sera comunque incolumi a casa vostra, ci sono persone che la mattina si svegliano e non sanno come arriveranno alla sera. Non mi sono assolutamente preparato un incipit strappalacrime, ma questa mattina in metropolitana, come sempre faccio, do una prima occhiata alle Free Press che trovo appoggiate sul sedile della persona che è scesa alla fermata prima di me. E ho due storie proprio romane. Ve le cito per farvi capire qual è il sentore generale. Una è la storia di Simone, un ragazzo di 17 anni, con una distrofia muscolare, quindi sulla sedia a rotelle, ma comunque va a scuola, nella sua scuola, per entrare nell'edificio scolastico, deve fare un lungo giro, entrare da una porta posteriore, che molte volte è chiusa, quindi entra in ritardo alle lezioni. Voi direte, beh, che male c'è. Sì, perché in questa scuola, nonostante ci siano leggi ormai da anni, ci sono degli scalini per entrare, e lui con la carrozzella non può salire gli scalini. Fin qua rientriamo negli esempi di scarsa osservanza, scarsa sensibilità, tutte le scuole dovrebbero avere le rampe per i disabili. Ma cosa accade? Accade che la madre lancia un appello, dice: sentite, mi aiutiate, ce la costruiamo da noi questa rampa. E questo è un primo esempio di una mamma che non vuole più subire, non vuole più accettare quella che sembra una prassi, una regola. Dice: io non ce la faccio più a far fare tutte le mattine un lungo giro a mio figlio, deve salire come gli altri ragazzi per le scale. Questi 7 scalini sono un ostacolo contro la legge, costruiamocela da noi la rampa. Poi un'altra storia di qualcuno che non ha visto questa mattina e non vedrà mai le mattine a seguire, è un anziano a 70 anni, sempre a Roma, nel quartiere Prenestino, è stato trovato carbonizzato a casa sua, si era addormentato probabilmente con la sigaretta accesa, è morto bruciato. Una badante che si occupava di lui, finito il turno, è tornata a casa. Quindi era un essere umano in grave difficoltà, non autosufficiente, comunque era lasciato solo. Perché è lasciato solo? Perché non c'è una copertura per la sua assistenza? E se non ha famiglia, come appunto sempre accade che le famiglie siano il grande ammortizzatore di tutte queste circostanze di estrema difficoltà, nessuno si occupa di lui. 800240024, iniziamo questa mattina. Stefano Trasatti, buongiorno. Buongiorno. Stefano Trasatti è direttore dell'Agenzia di Informazione e redattore sociale, assieme a cui noi seguiremo in questa settimana tutto un segmento non indifferente di popolazione per cui la crisi è qualcosa di molto particolare. Ho detto un segmento non indifferente che però è difficile quantificare. Se questa mattina volessimo parlare di tutte le famiglie che hanno un peso in casa di gran lunga più forte, più difficilmente gestibile di altre famiglie, quindi un figlio disabile, una persona con problemi di precoce demenza senile, una persona comunque non autosufficiente, e volessimo dare una quantificazione, riusciamo a trovare un numero, Stefano, plausibile? No, non c'è un numero fisso, si possono guardare degli spicchi. Se pensiamo per esempio che le persone non autosufficienti in Italia vengono quantificate in circa 3 milioni, che le persone disabili, all'interno delle quali ci sono anche molte persone non autosufficienti, sono poco meno di 3 milioni. Se pensiamo che le cosiddette badanti, cioè le assistenti domiciliari, le assistenti familiari, sono stimate in 1.400.000, 1.500.000 circa, anche se poi i regolari sono molte meno, sono 800.000-900.000, beh, insomma, abbiamo le dimensioni. Se poi andiamo sulle povertà estreme, i numeri sono più piccoli ma ugualmente preoccupanti. Se guardiamo la povertà assoluta, si parla di 2 milioni, l'Istat dice 2 milioni e mezzo di persone. I senza dimora, c'è stato fatto un censimento, qui il numero è abbastanza preciso, sono 50.000 le persone in Italia, un numero superiore a quello che si pensava. Insomma, non c'è un numero, però insomma parliamo di moltissime persone attorno alle quali non va dimenticato e poi ci sono le famiglie, ci sono reti familiari, amicali che comunque sono coinvolte, quindi è un disagio che attraversa una fetta abbastanza consistente dell'intera società. Allora, il senso generale per cui vogliamo cominciare questa mattina, circoscrivendo una parte di questo grande panorama che ha tratteggiato per sommi capi Stefano Trasatti, è che in un momento in cui tutta la forma possibile di assistenza che era concepita dal nostro welfare nazionale era basata su un contributo di tipo economico. Vabbè, hai bisogno, cerco nei limiti che me lo consente il mio bilancio di darti dei soldi. Questo fa sì che veniva dimenticato o sottovalutato il fatto che fosse necessario anche creare delle strutture concrete, reali, dei centri in cui queste persone potessero avere una concreta assistenza, quindi i servizi, i cosiddetti servizi. Oggi che di soldi ce ne sono meno, oggi che le famiglie hanno pian piano mangiato tutto il loro importante risparmio, per questo eravamo leader in Europa, oggi cosa accade quando c'è una situazione grave da gestire in famiglia? Ancora una volta il peso è tutto sulla famiglia. 800240024. Chiara Bonanno, buongiorno. Buongiorno. Chiara Bonanno, la sua storia. Dunque, io sono la mamma di un ragazzino che ha una disabilità molto grave, per cui ha bisogno di assistenza 24 ore su 24, nel vero senso della parola, ossia giorno e notte. Da circa 3 anni, da quando si è aggravato, per portarlo a casa dall'ospedale, fargli vivere una vita dignitosa, adeguata, una vita abbastanza normale, malgrado la sua grave patologia, io praticamente ho rinunciato a tutti quelli che sono i miei diritti umani. E vivo in una condizione di arresti domiciliari. Io parlo di arresti domiciliari in maniera così simbolica, nel senso che poi in realtà i detenuti vengono riconosciuti, dirò una cosa molto forte, però vengono riconosciuti in Italia dei diritti che a noi familiari che assistiamo una persona con gravissima disabilità non vengono riconosciuti. Il diritto al riposo, io anche quando mio figlio è abbastanza stabile, perché quando non è stabile faccio nottata, ogni 2 ore devo alzarmi e verificare se deve cambiare posizione, se è abbastanza ossigenato, eccetera eccetera, per cui vigilarlo ogni 2 ore, e non riesco a dormire per più di 2 ore consecutive. È dato per scontato, Chiara Bonanno, che di questa cosa si occupi la madre. Sì, pratica io ho assistenza domiciliare infermieristica 6 ore, sono tra quelli più fortunati al giorno, il resto delle 18 ore è tutto sul delegato a me. Chiaramente poi l'assistenza domiciliare notturna quasi nessuno ce l'ha, per cui sì, è dato per scontato che qualcuno si occupi della famiglia. In famiglia quanti siete, a parte lei e suo figlio? Sono solo io e mio figlio. Siete soltanto voi, quindi? Sì, siamo solo io e lui. Lei è vedova, non ha più marito? Io sono vedova, sì. Ma lei non ha un lavoro? No, io ho dovuto lasciarlo il lavoro, perché poi tra l'altro per portarlo a casa e per avere l'assistenza domiciliare gli operatori sanitari e sociali potevano operare a domicilio soltanto in compresenza con un caregiver familiare. Nel mio caso sono solo io, per cui ho dovuto lasciare il lavoro e questo ha coinciso con anche un estremo impoverimento del nucleo familiare, nel senso che è la mia unica fonte di reddito, adesso viviamo con la pensione di mio figlio. Quindi la pensione sociale di suo figlio, la pensione di invalidità del suo figlio, l'invalidità di suo figlio, mi scusi, è l'unica fonte di reddito. Sì, lei su sì. Questo vive. Sì. E non solo, poi dovesse succedere che mio figlio non sta bene, per cui che io sopravviva a mio figlio, questo vuol dire anche che per me non ci sarà possibilità di accesso a una pensione dignitosa, perché non avrò pagato, non avrò riconosciuto i contributi che mi permettono di accedere a una pensione dignitosa, per cui non so che cosa farò anche dopo. E in ogni caso, quindi la sua speranza di vita futura, se mai lei dovesse sopravvivere a suo figlio, è di non sopravvivere, è di non sopravvivere a suo figlio, e questo volevo esattamente dire. Si fermi un attimo, Chiara Bonanno. Rosa Maria, un'ascoltatrice. Sì, buongiorno. Spenga la radio. Sì, ecco, abbasso il volume. Ok, mi sente? La sto ascoltando. Sì, e niente, io sono la mamma di un bambino che tra poco compie 13 anni e sono laureata in economia e commercio, ho 42 anni. Però da quando è nato ho dovuto scegliere di abbandonare quella che poteva essere la mia carriera. E non è una situazione difficile come quella che sentivo prima al telefono dalla signora precedente, però comunque è complicata. Noi siamo io, mio marito, il ragazzino, e adesso sono incinta di 5 mesi, sto finendo il quinto mese. Che patologia ha suo figlio? Mio figlio ha un grave ritardo psicomotorio e soffre di epilessia. Viene da subito, è stato seguito da centri, dal Bambin Gesù a Palidoro, poi dall'UTR della zona, perché io sono nella provincia di Frosinone, vicino a Cassino. Comunque anche la sua è una situazione in cui un ragazzo con quei problemi ha bisogno di un'assistenza H24. Continua. L'H24, sì, noi diciamo, sembra un termine in sé poco comprensibile per chi non soffre il problema, significa, come ha detto appunto Chiara Bonanno, che si è agli arresti domiciliari, comunque sia una persona a stare costantemente accanto a questa persona. Sì. Un qualsiasi altro ragazzo, per quanto vivace, per quanto instabile tutto, può comunque essere lasciato in camera sua a giocare con il computer, a scrivere, a disegnare. Sì. Un ragazzo con disabilità grave va sempre sostenuto, va sempre seguito. Anzi, più cresce un problema con... Cioè, nel senso che cammina, per fortuna, non è bloccato su una sedia a rotelle, siamo stati fortunati. Ha incominciato a camminare tardi, però per fortuna riesce a camminare, però non è autonomo nella pulizia, nel mangiare, nella necessità quotidiana. Non potrebbe fare un passo da solo fuori dalla porta di casa? Questo... No, da solo no. Ecco, questo solo per far capire. Fermiamoci, Rosa Maria. Maria Simona Bellini, buongiorno. Buongiorno a voi. Chiara Bonanno ha tirato fuori un termine, caregiver familiare, che non è detto sia un termine così conosciuto. Lei è tra i fautori della battaglia per il riconoscimento di questa figura, che potrebbe, non dico risolvere i problemi, ma aiutare. Ci spiega esattamente di cosa si tratti? In realtà si tratta di una causa, perché noi siamo stati costretti, dopo un'attesa ormai decennale, a seguire questa strada, quindi non lo facciamo nostro malgrado, ma a questo punto è necessario, come anticipava Chiara, il problema è che non c'è attenzione per queste situazioni, anzi secondo noi è voluta questa disattenzione. Voluta in che senso? voluta, perché c'è il rischio di scoperchiare un po' il vaso di Pandora. Ma diciamo, scoperchiamolo, qual è questo vaso di Pandora? Che esiste un'infinità di persone, di associazioni, di interessi che situazioni drammatiche come quelle su cui stiamo parlando fanno il loro importante business. Proprio questo è il problema. Quello che noi chiediamo... Diciamo è che realtà... conosco la materia personalmente. Ecco, quello che noi chiediamo in realtà è che le risorse vadano esattamente al bisogno e che non si disperdano in mille rivoli, e queste risorse devono guardare soprattutto alle tutele. E quando noi parliamo di tutele parliamo di appunto una copertura figurativa di contributi che possano permettere comunque nel futuro di accedere a una pensione dignitosa prima di tutto, ma anche le tutele sanitarie, perché noi siamo sottoposti a particolari usure, e questo è comprovato da un premio Nobel che con i suoi studi appunto ha vinto il premio Nobel, Elizabeth Blackburn, e che ha provato scientificamente che le nostre speranze di vita sono ridotte dai 9 ai 17 anni. Maria Simona Bellini, però ci spieghi meglio in cosa consiste questa figura del caregiver? Perché noi siamo abituati, o se ne occupano i genitori, o se ne occupa vagamente una badante, o se ne occupa il sostegno che manda a casa il comune, il municipio. Nella maggior parte delle volte sono persone in cerca di lavoro che fanno quel lavoro come uno dei tanti, si mettono lì e ci dicono: ma ditemi cosa dobbiamo fare, senza nessuno skill professionale. In realtà invece cos'è il caregiver? Il caregiver familiare, cioè il family caregiver, è colui che lo fa a titolo volontario, quindi senza alcuna retribuzione. È una scelta d'amore quella che si fa, però in realtà noi subiamo un ricatto d'amore, perché poi questo lavoro importantissimo sul piano sociale e anche culturale non quindi viene minimamente riconosciuto. Può essere anche un familiare. Un familiare che comunque convive 24 ore su 24 col disabile gravissimo e se ne cura. Ci sono situazioni ovviamente... E cosa chiedete voi per questa figura? Per questa figura chiediamo appunto soprattutto le tutele, quindi il riconoscimento del lavoro di cura con una copertura figurativa dei contributi e le tutele sanitarie fondamentali, quindi la possibilità di potersi curare per esempio. Noi siamo costretti spesso a rinunciare alle cure per noi proprio perché non possiamo abbandonare il nostro caro. Nell'esempio che abbiamo fatto prima di Chiara Bonanno, che è ancora in ascolto, in parte sarebbe un sollievo per la sua situazione se questa figura fosse riconosciuta. Assolutamente sì, quantomeno ci permetterebbe a tutti di poter anche subire un ricovero per un intervento, cosa che attualmente non possiamo fare, in quanto con una copertura integrativa sanitaria potremmo comunque farci sostituire almeno per brevi periodi. Dario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. L'ascolto. Sì, allora io dunque sto ascoltando con interesse la trasmissione, perché ovviamente anche io ho la mia esperienza, ma volevo dare un contributo, diciamo, cercare di darlo in maniera positiva. Mi ritengo davvero fortunato perché sono padre di una bimba autistica ormai a 17 anni e ci stiamo preparando per organizzare la festa dei 18 anni. È una ragazza che non ha particolari problemi, comunque ha una disabilità marcata, ma riesce a camminare, riusciamo a garantire a lei un'esistenza più che dignitosa. Il problema che volevo porre è questo. Sì, riuscite, ma a quale prezzo? Che qualcuno di voi sia sempre costantemente accanto a lei? Certo, assolutamente. Siamo un prezzo doveroso, un prezzo amoroso, ma bisogna considerare che una persona della famiglia deve sempre stare comunque agli arresti domiciliari accanto alla ragazza. Assolutamente sì, ed è ormai non è, cioè, è un pezzo solo, ma in realtà è l'intero nucleo familiare. Io, mia moglie, Virginia ha una sorella, in realtà siamo tutti e tre, tutti e quattro coinvolti, a volte anche i nonni, i familiari, perché ogni tanto c'è bisogno di quella, diciamo, di quel minimo respiro, di quel minimo recupero. Quanti sono i disabili in Italia? I disabili in Italia sono circa 3 milioni di persone, però c'è il 63% di donne e il 37% sono gli uomini. I disabili vorrebbe dire gli anziani non autosufficienti, ma persone con disabilità che diventano e sono nati. La questione del lavoro invece? La questione del lavoro è ancora un po' complicata. perché ancora oggi c'è disabili che con la legge 68 sono, c'è il lavoro mirato, cioè l'inserimento mirato. La provincia dovrebbe trovare del lavoro e qua entriamo ancora in un'altra fase del problema. Il disabile che ha una forma di autosufficienza, l'accesso al mondo del lavoro del disabile, ma noi siamo ancora un passo indietro. Siamo il disabile che ha totale carico della famiglia, carico materiale, concreto, emotivo, affettivo, dato per scontato che comunque una famiglia in cui ci sia una persona disabile è una famiglia che non ha più diritto di vivere. Mi scrive un ascoltatore, questi sono i veri invisibili, sono ectoplasmi sociali. È vero, persone ridotte allo stato di ectoplasma sociale. Un'altra persona mi scrive, è vergognoso che lo Stato non intervenga pagando i contributi figurativi a una mamma che sopperisce evidentemente a una carenza dello Stato. Ma è un discorso che ormai sembra molto, molto datato, molto sorpassato. Ci fa piacere stamattina leggere sui giornali che il ministro del lavoro Elsa Fornero è intervenuta, ha bloccato l'INPS, una circolare dell'INPS che aveva fatto molto discutere, che prevedeva una nuova soglia di reddito non più personale bensì familiare per le pensioni di invalidità. Dovrà aspettare l'INPS, ha posto un'istruttoria su questa soglia del reddito il ministro Fornero, almeno adesso che tutti stiamo molto attenti a quello, alla maniera in cui si muove la politica. Mi ero interrotto con Dario, genitore di una ragazza autistica di 17 anni. Dunque, io volevo dire questo, ho ascoltato anche le testimonianze di altre persone. Ovviamente la disabilità è molto variegata, è davvero diversificata. Ci sono delle condizioni, delle situazioni davvero molto pesanti e insostenibili per Sì, Dario, ma cosa farà la vostra famiglia quando per condizione naturale e anagrafica vostra figlia vi sopravviverà? Ecco, questo è quello che volevo esporre. Noi siamo da decenni, combattiamo per cercare di far nascere all'Aquila o comunque in Abruzzo dei centri specifici per l'autismo, ma non solo, che possano garantire una vita più che dignitosa a questi ragazzi e che possa anche individuare quelle aree di competenza, quelle possibilità di, diciamo, di autonomia che possono rendere loro possa permettere loro di vivere un ambiente con un'attività lavorativa protetta. Lei ha toccato e sfiorato un tema che conosco bene, la grande utopia, il sogno di ogni genitore di figlio con disabilità psichica nello spettro autistico, di pensare a una sorta di città felice in cui suo figlio possa avere una vita soddisfacente per quelle che sono le sue esigenze, per cui non dovrà porsi l'angoscia man mano che lui invecchia. Il figlio comunque è ben vigoroso, ben in forze, ma comunque si vede sempre più una spietatezza generale, per cui un figlio come quello non avrà più ragione di avere una vita sociale. E questo sembra talmente facilmente realizzabile, ma si vede che poi le strutture pubbliche hanno spazi per biblioteche, giustissimo, spazi per centri sociali, giustissimo, spazi per centri di meditazione trascendentale, giustissimo, ma un buco possibile in cui possono essere messi i ragazzi autistici per vivere la loro vita sembra sempre difficile da trovare. Stefano Trasatti, ho soltanto accennato alla questione INPS, non fa parte di questa trasmissione, ma in generale su quello che finora è stato detto, sull'organizzazione da parte delle famiglie che stanno uscendo dall'isolamento, dall'idea che ognuno è un universo di disperazione a sé. Sì, questa è una delle grandi novità degli ultimi anni e in questa trasmissione tu ne hai dato spesso dimostrazione facendo parlare e facendo emergere la grande risorsa che è la famiglia. Quando si parla di famiglie che è costretta in casa, gli arresti domiciliari, quando si parla di assenza di servizi che alleggeriscano le famiglie da questo peso, non è che si deve pensare che le famiglie vorrebbero disinteressarsi e vorrebbero fare altro. Le famiglie vogliono stare insieme ai loro figli, vogliono starci moltissimo, hanno bisogno di un grande sollievo che appunto alleggerisca il peso quotidiano, hanno bisogno di servizi che li facciano vivere e che facciano mettere in circolo le loro risorse, le loro competenze, parlo di competenze, le risorse dei genitori, le loro competenze sulla disabilità, aiutare altre famiglie che hanno gli stessi problemi o che ce l'hanno da poco. Ecco, è questo il grande problema. Allora Stefano, dunque, io dico, Stefano, ricordo che è direttore di Redattore Sociale, che è l'agenzia di informazione che si occupa del terzo settore, che ci sta aiutando in questa settimana del sociale. Io con Melog faccio un'anticipazione, Tutti i nostri colleghi in questa settimana si occuperanno nelle loro trasmissioni di temi attinenti, ma in particolare giovedì con Mello che vorrei occuparmi, mi aiuterà anche Stefano Trasatti, proprio del grande business della disabilità, di quante risorse vengono spese, di quante cooperative vivono, di quante associazioni, onlus, società no profit, vengono comunque in parte finanziate dallo Stato e qual è il servizio che poi è realmente goduto alle famiglie. Carlo Giacobini, buongiorno. Buongiorno. Carlo Giacobini è direttore di Handilex.org, che è il sito dedicato alle persone disabili e ai loro diritti. C'è qualcosa che corrisponde a realtà in quello che sto dicendo? Che in realtà in fondo qualche soldo viene speso dal pubblico su questi problemi, ma non sempre arriva nella maniera giusta o nella misura giusta alle persone che poi hanno bisogno? Sempre meno spende il pubblico in termini di disabilità, abbiamo dei dati sufficientemente evidenti negli ultimi 5 anni fino ad arrivare all'ultima legge di stabilità. La spesa nell'ambito del sociale in generale, quindi disabilità, famiglie eccetera, è passata da 2 miliardi e mezzo a 250 milioni, con qualche ritocco nell'ultima legge di stabilità dopo iniziative anche molto eclatanti, quindi i termini di spesa sono assolutamente in crollo. Lo stiamo vedendo anche nelle delibere regionali, nelle indicazioni regionali. Ad esempio, uno degli esempi è quello del brillante nord-est, del brillante Veneto, in cui le spese per gli assegni di cura, per la domiciliarità, probabilmente con il prossimo bilancio scompariranno quasi del tutto. È quello che molte famiglie sentono dire: non c'è più la domiciliare perché non ci sono più soldi, ci sono meno ore di sostegno perché non ci sono soldi, non ci sono più assegni perché non ci sono soldi, e uno si arrangia. Sì, uno si arrangia, teniamo presente che i dati, il sovraccarico, molto spesso si fanno i calcoli di quello che spende lo Stato in termini di sostegno alle famiglie e sostegno ai disabili, allora si fanno le somme dell'indennità di accompagnamento, delle pensioni, di queste provvidenze assistenziali e non si fa invece il calcolo dall'altra parte di quanto costa in termini diretti e indiretti alle famiglie l'assistenza, il supporto ai loro familiari. E diamo qualche numero, Giacobini. Ma diamo qualche numero in termini di media, naturalmente. Di quell'aspetto che riguarda di più e che impoverisce di più le famiglie. Ricordiamo che la disabilità non è un'autosufficienza, è il primo elemento di impoverimento per le famiglie italiane. Lo è perché costringe a un maggior numero di spese, lo è perché costringe a un mancato introito, questo figlio ad esempio che non cresce o questa persona con disabilità che non riesce a essere inclusa nel mondo del lavoro, ma significa anche ad esempio per moltissime donne rinunciare a lavorare o passare a part time o rinunciare a una carriera lavorativa, a un lavoro normale, dignitoso, per coprire quelle che sono le lacune lasciate da un sistema assistenziale che è sempre più poi debole. Giacobini, diciamocelo, la famiglia è anche come un'azienda. Se non c'è più spinta emotiva, non c'è più gioia, se non si vive più la vita, come si può investire proficuamente anche nel campo della professione? Ecco, questo riguarda 3 milioni e mezzo di persone in Italia che si prendono regolarmente cura di anziani, adulti, disabili e sono prevalentemente donne, cioè donne che magari fra 20 anni, 25 anni non si troveranno coperte né da un punto di vista previdenziale con una giusta pensione né da un punto di vista assistenziale perché non ci saranno più le misure sufficienti per coprirle. È questo termine di prospettiva che inquieta, preoccupa, se permette anche angoscia le persone. Quindi l'agganciarsi a qualsiasi riferimento, a qualsiasi possibilità di assistenza, di sollievo, come si diceva prima. Mi scriveva un genitore di un ragazzino autistico con grave ritardo mentale, diceva: tutti si dicono tristi per la fine delle vacanze natalizie. Il padre di un ragazzo autistico con grave ritardo mentale iperattivo invece non vede l'ora che le scuole riaprano. Quindi, lo vedo. Per me il Natale è stato un vero incubo. È assolutamente significativa questa frase nella sua lucidità ed amarezza. Come un incubo sono le vacanze, come un incubo è il fine settimana, il weekend, tutto quello che per gli altri è momento di sollievo. Per famiglie che hanno questo problema, che conosco di persona, è il momento dell'incubo. Il venerdì pomeriggio si apre l'incubo, che finisce il lunedì mattina, quando il figlio torna a scuola. E per quanto tempo tornerà a scuola, quando ormai è in età post-adolescenziale? Questo è il vero problema. L'attenzione di questi parcheggi. Giuseppe. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Tante cose sono state dette molto giuste. Io forse sono un caso un po' diverso. Io e mia moglie abbiamo una figlia gravemente disabile, non autosufficiente in niente. Io ho optato io di stare a casa molti anni fa per motivi psicologici, ero più forte ad affrontare questa situazione. Ho già 60 anni adesso. E adesso mia moglie sperava, poiché anch'io ho dei problemi, purtroppo, anch'io speravo di andare in pensione un anno fa, in quanto è da anni che i nostri amati governanti dovrebbero far passare la legge che chi assiste e che il lavoratore che assiste dei familiari in cui mia figlia rientrerebbe avrebbe potuto andare in pensione con un bonus di 5 anni, ma naturalmente non è passata questa legge e non passerà mai. Le leggi che passano sono ben altre. Ecco, io volevo dire questa situazione drammatica, nel senso che poi una cosa fondamentale è questa qua: tutti parlano di persone disabili o non autosufficienti, però c'è ancora purtroppo la guerra dei poveri. Non si può paragonare a un signore anziano che arriva a 80 anni e diventa disabile con uno che nasce disabile. Ci dovrebbero essere due binari diversi. Non si può paragonare un ragazzo che nasce disabile ha una vita in una famiglia del disabile con uno che lo diventa. Anche qui, parlando economicamente, la vita è troppo diversa. Non so. Lei dice che non può essere presi iniziative, provvedimenti tipo lineare, quando il mondo, la disabilità, della non autosufficienza è un mondo così variegato. È vero, della cosiddetta guerra da poveri ho avuto spesso sentore, i disabili psichici che dicono i carrozzati prendono il doppio di noi, quelli che dicono noi in certe città prendiamo questo e non prendiamo l'altro. Sì, è molto difficile, è molto complicato, sapevo che non sarebbe stato un argomento facile da affrontare. Noi abbiamo toccato alcuni punti, ma vorremmo cercare in questa ultima parte della trasmissione, invece che continuare nella solita elencazione dei problemi che molti di noi già ben conoscono, altri probabilmente ascoltano con l'orecchio distratto, altri ascoltano con maggiore attenzione, stanno scrivendo persone offrendosi di aiutare alcune delle persone che noi abbiamo fatto parlare questa mattina, ben volentieri daremo loro i riferimenti, ma non è questo che vogliamo fare, non è il grande spettacolo della bontà e della beneficenza, non ci interessa questo. Stefano Strasatti, direttore dell'Agenzia di Informazione e redattore sociale. Riusciamo a fissare alcuni punti, Stefano, sui quali si potrebbe incentrare un lavoro positivo, costruttivo, di fronte alla disperazione che abbiamo raccontato questa mattina? Uno, mi sembra tu l'hai detto, è quello del grande social network delle famiglie. Io vedo che le famiglie che hanno un problema di disabilità comunque sono digitalmente molto avanzate, si muovono molto, il passaparola è molto veloce, questa trasmissione vedo già sta circolando su Facebook, su Twitter, già ne parlano tutti. Sì, questo è è una cosa che va avanti per conto suo. Io invece vorrei toccare un punto difficilissimo, complicatissimo, enorme, però che bisogna affrontare, altrimenti noi stiamo a parlare di spiccioli e invece le banconote stanno da un'altra parte. Bisogna affrontare il problema della separazione attualmente esistente tra il sociale e il sanitario. Cioè, noi parliamo di fondi sociali, parliamo di 2 miliardi, parliamo di 200 milioni, 300 milioni, cioè briciole, ma assolutamente lo 0,0. Spiccioletti, sì. Sì, di tutta la spesa sociale che viene fatta in Italia, invece le grandi risorse sono tutte concentrate sul sanitario, legittimamente ovviamente, però c'è una integrazione. Sì, dove sappiamo anche, Stefano, quello che succede, di cui spesso le cronache ci riportano gli sprechi, i buchi neri, le ruberie, le schifoserie più sublimi. E allora, finché non si abbatte questa barriera, finché non si capisce che i problemi di cui stiamo parlando sono problemi socio-sanitari e che quindi vanno affrontati con l'energia, con le risorse con cui vengono affrontati quelli sanitari, Noi non andremo da nessuna parte. Poi ovviamente sì, c'è l'autoaiuto tra genitori, che è la grande novità, dicevamo prima, andrà avanti perché i genitori sono più moderni, più giovani e si stanno mettendo in rete. Ma il problema delle risorse è tutto in questa barriera, in questo colosso d'acciaio che sta da una parte, in questo vaso di terracotta che gli sta vicino e che viene continuamente maltrattato, come vediamo. Giacobini parlava prima dello squilibrio, del taglio enorme che c'è stato negli anni scorsi su questi piccoli fondi sociali, ma parliamo dello 0,04%. Io mi meraviglio solo di una cosa in questo momento, che siamo in par condicio, quindi lo dico a 360 gradi, che tra i tanti argomenti, tra tante leve emotive che vengono mosse alla politica in questi giorni, vedo ben poco spazio, almeno nelle promesse, per ciò che riguarda appunto il settore di cui stiamo parlando. Marina Cometto, buongiorno. No. Marina Cometto è molto conosciuta sul web, è un punto di riferimento per molte famiglie. Qual è la sua storia? La mia storia: io ho una figlia di 40 anni, gravemente disabile, totalmente non autosufficiente, con una grave malattia genetica che si chiama la sindrome di Rett. Ha una particolarità perché non comunica in alcun modo verbalmente, ma soltanto con gli occhi, con il sorriso. Quindi bisogna riuscire a comunicare con lei, a entrare in empatia con lei. E giusto perché il tempo è poco, le cose sono importanti, io volevo riportarmi al suo pensiero precedente, che dice: chi interverrà dopo cerchi di dare delle risposte a queste domande. Io vorrei centrare una cosa su quello che interessa molte famiglie con genitori anziani e figli con disabilità, adulti con grave disabilità. Può sembrare cinica, ma invece è soltanto chiarezza. Allora, visto che in Italia l'eutanasia obbligatoria di Stato non esiste ancora, mia figlia, un domani non ci fossimo più noi, lo Stato deve farsene carico. La prende e la mette in una comunità, un RSA, perché mia figlia ha anche necessità sanitarie. Ma chi parla poi con sua figlia, che lei l'ha decodificata in 40 anni? Infatti. E allora, perché non lasciare mia figlia a casa, mia figlia come la figlia di tutte le altre persone che lo desiderano e hanno la possibilità di avere una casa a disposizione, con la propria famiglia? Però la famiglia deve poter continuare a lavorare, quindi potrebbe essere la sorella, un fratello, via dicendo. Nelle ore che queste famiglie, fratello, sorella o parente che si vuole prendere carico, bisogna pagare l'assistenza, perché gli stessi soldi, e si parla di 2, 3, 400 euro anche in alcune situazioni al giorno per tipologie del genere, invece di pagarle a una RSA o a una comunità, non si spendono per un'assistenza domiciliare? Questo è esattamente il punto a cui tenevo che si arrivasse, perché l'abbiamo toccato, ecco, in apertura. Per quanto siano pochi i soldi che si spendono, siano soldi destinati al sociale, sia soldi destinati al sociosanitario, qualcuno questi soldi in tasca se li mette, sì, e poi riversa un servizio. Quello che dice lei, Giacobini, è quello che vale per il caso di sua figlia, ma per un'infinità di altre non autosufficienze. Ma perché questi soldi non li date alla famiglia, che se li spende con le persone che reputa più adatte, piuttosto che avere un servizio scarso, persone che ti guardano con lo sguardo disgustato, persone che sai che prendono soldi sufficienti a pagare una prestazione professionalmente adeguata, ma in realtà non lo è. Infatti, perché io in questo punto potrei anche cominciare prima a cercare le persone che riuscissero ad entrare in comunicazione, a formarle sul problema di sua figlia, formarle quando ancora ci sono io, in maniera che poi la cosa sarebbe più semplice. Da questo orecchio però non ci sentono. Si preferisce dare i soldi appunto alle cooperative, alle RSA, alle comunità, piuttosto che riconoscere: ma io non li vorrei come famiglia, basterebbe che pagassero gli operatori che vengono a domicilio. Diciamolo chiaro, non è che è un affair per la famiglia, che ha uno stipendio in più. La famiglia gestisce quei soldi nella maniera migliore, certo, nella maniera migliore per gestire. Certo, però a volte c'è proprio questo timore e questa accusa, fra virgolette, da parte dell'ente pubblico: volete i soldi? No. Vogliamo i soldi perché servono per un servizio. Se poi voi ci pagate il servizio, per noi va altrettanto bene, perché c'è questa cosa. Diciamo che è supportata questa idea, siamo in conclusione, ne prendo io la responsabilità di quello che dico, da questa diffusa, pervasiva costante e trionfalistica campagna sui falsi invalidi. Ora, i falsi invalidi portano via risorse a noi per primi, che abbiamo gli invalidi in famiglia, ma mi sembra che l'accentuare l'idea che in realtà esista una genia di persone che si approfittano della disabilità per farne un profitto non sia la maniera migliore poi per risolvere il problema. Siamo arrivati in conclusione di questa prima giornata, lascio il testimone agli altri colleghi, riprenderò io l'argomento giovedì e lo riprenderemo esattamente da dove l'abbiamo lasciato oggi. Grazie a quanti hanno partecipato.